I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Come giudicare la decisione del governo di procedere con la riforma del contenzioso bancario? Stiamo parlando del nuovo caso politico esploso all'improvviso, il rischio di perdere casa se non si paga il mutuo per 7 volte consecutive. Poiché in genere le rate si pagano al mese, significa in pratica che 7 mesi di ritardo possono costare la casa, che per tanti è risparmio di una vita. Per il governo non si poteva fare altrimenti, visto che si tratta di una norma imposta dalla UE a tutti i paesi dell'Unione. Per le banche, le più preoccupate dalle polemiche esplose in Parlamento, si tratta invece di un allarme eccessivo su un provvedimento che, non imponendo il sequestro immediato della casa dopo i 7 mancati pagamenti, lascerà comunque alle banche un margine di discrezionalità sulla procedura di recupero da seguire nei casi di morosità recidiva. Senza contare che già oggi nei contratti di mutuo è scritto quante rate è possibile saltare senza rischiare l'espropriazione forzata. È bene comunque tenere presente che larga parte dei prestiti in sofferenza che pesano sui bilanci delle banche nascono proprio da mutui ipotecari non pagati. Come finirà, insomma? Sarà ora la Banca d'Italia a scrivere le disposizioni attuative della nuova norma, un lavoro dedicato che dovrà fissare gli obblighi, anche informativi, e le procedure concrete a cui dovranno attenersi le banche. Per ora una cosa è chiara: forse più del merito, onorare i debiti è sempre un obbligo per tutti, è sulla forma che in questa fase va prestata molta cautela. In tempi di grandi incertezze, certe riforme vanno non solo spiegate bene, ma soprattutto per tempo e con grande senso di responsabilità da parte delle istituzioni, per non compromettere ulteriormente una fiducia dei risparmiatori, già duramente colpita dalla crisi, dai fallimenti bancari e dal crescente distacco sulle rigide norme europee. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Mentre ancora in furia la polemica sui mutui e mentre il governo cerca di introdurre maggiori garanzie sulla norma che consente alle banche di mettere in vendita gli immobili per i quali non vengono pagate le rate del mutuo senza passare dalle aste giudiziarie, arriva una notizia incoraggiante per il mercato immobiliare. Nel 2015 hanno cambiato proprietà quasi 450.000 abitazioni, con una crescita del 6,5% rispetto all'anno precedente. E peraltro, per tornare al tema dei mutui, il finanziamento bancario è stato utilizzato per l'acquisto di ben 193.000 immobili, oltre il 40% del totale. Come valutare questi dati? Beh, sicuramente può essere un segno di risveglio del mercato, ma come al solito serve cautela, perché non dobbiamo scordare che nel 2007, ad esempio, le compravendite erano state oltre 800.000, quindi quasi il doppio di quelle registrate nel 2015. L'altro elemento è che questo risultato è stato raggiunto sacrificando qualche punto percentuale sul versante della tenuta dei prezzi, che sono rimasti a livelli precedenti solo per gli immobili di pregio e solo nelle zone di pregio. Infine, uno sguardo alle città: c'è da segnalare un'ottima performance a Milano, con una crescita del 13,5%, a conferma, se vogliamo, di una stagione decisamente d'oro in molti ambiti per il capoluogo lombardo. Sul versante opposto, Roma invece si ferma a un modesto incremento dello 0,8%, e questa volta la conferma delle difficoltà in cui da tempo si trova la capitale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.